Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E poi ho fatto una cosa che non avevo mai pensato di fare, l'allenatore. Non volevo farlo. Poi uno la mattina si alza e dice: ma perché no? Non so se è capitato anche voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di alzarvi una mattina e di dire: ma non avevo mai pensato di fare questa cosa, ma facciamola, perché no? Così come è successo a Claudio Ranieri, allenatore che adesso è diventato famosissimo in tutto il mondo dopo la vittoria dell'Leicester, questa squadra inglese sulla quale non scommetteva nessuno e che poi ha vinto in questi giorni di recente il campionato d'Inghilterra. Insomma, uno su mille ce la fa, direbbe il poeta o il cantante. Ma noi parleremo di molto altro, parleremo della direzione del PD, soprattutto oggi c'è stato questo vertice. Renzi sperava che fosse tranquillo, invece è scoppiato questo scontro tra Cuperlo, uno degli esponenti della minoranza PD, e la ministra Boschi sul referendum e sulle campagne del sì e del no. Poi ne parleremo. C'è stato poi questo terremoto, definiamolo così per semplicità, in Austria, dal punto di vista politico, sto dicendo, nel senso che già si capiva al primo turno delle elezioni presidenziali qualche settimana fa che stava avendo un grosso successo inaspettato l'ultradestra. Adesso che è confermato questo successo, questo trionfo, si è dimesso il cancelliere austriaco, cioè il primo ministro praticamente dell'Austria. Che conseguenze potrebbe avere questo? Lo capiremo, così come capiremo una serie di altre cose. Oggi si è discusso l'Eurogruppo a Bruxelles, ancora di Grecia, del suo debito, della nuova tranche di aiuti. Insomma, come sempre qui a Effetto Notte ci muoviamo dall'Italia ai scenari internazionali, anche su argomenti che possono stare a cuore o meno, ma insomma che riguardano molte persone. Per esempio, l'argomento che vi sottopongo questa sera è quello delle unioni civili, perché il testo del disegno di legge è tornato alla Camera e si voterà in questi giorni, probabilmente la fiducia, quindi dovrebbe essere l'esito finale. Il ministro Orlando ha detto, il ministro della giustizia, finalmente, questa è una conquista storica, anche perché avremmo continuato a fare brutte figure con gli altri paesi europei, non solo con la Corte dei diritti umani di Strasburgo. Cosa ne pensate? Sarà una conquista storica? Ormai, se ci sarà il voto di fiducia alla Camera, dovrebbe essere quasi scontato. Che ne pensate? 349-238-6666, che è il numero per gli sms o whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte per i vostri commenti. Che ne pensate? Sarà ed è una conquista storica queste delle unioni civili? Intanto io vi riassumo come sempre la giornata. E quindi tra i temi principali abbiamo detto, a proposito dell'Austria, questo terremoto politico dopo il trionfo alle presidenziali dell'ultradestra, si dimette il cancelliere Faymann. Eurogruppo straordinario sulla Grecia, l'accordo sulla prossima tranche di aiuti arriverà nei prossimi giorni. Banca, il presidente della Consob Vegas sulla risoluzione per gli istituti bancari dice: nessuna autosoluzione, abbiamo fatto quanto potevamo fare. E Profumo diventa presidente della compagnia San Paolo. Direzione PD, Renzi mobilita il partito per il referendum e annuncia: anticiperò il congresso. Intanto scoppia lo scontro Boschi-Cuperlo. Unioni civili, il testo approda all'aula della Camera per quello che dovrebbe essere il rush finale. Allarme pesticidi, sono nel 64% delle acque di fiumi e laghi, sale la contaminazione sotterranea, i valori più alti nella pianura padano-veneta. Fisica, collisioni da record nell'acceleratore più grande del mondo, del CERN di Ginevra, porta aperta sull'ignoto. Calcio per Platini, pena ridotta di 2 anni, lui dice: prendo atto della decisione del TAS, del Tribunale Amministrativo Sportivo, ma è un'ingiustizia, mi dimetto dalla UEFA. Intanto Tommasi viene riconfermato presidente dell'Associazione Nazionale Calciatori. Partiamo quindi dallo sconvolgimento politico in Austria dopo la vittoria alle presidenziali dell'ultradestra. Il cancelliere socialdemocratico Faymann, vi dicevo, si è dimesso. Quali potrebbero essere le conseguenze? Per esempio, come potrebbe svilupparsi la vicenda del Brennero, che si trascina da un po', sapete, questo braccio di ferro tra Italia ed Austria? Ne parleremo più tardi qui nel corso di Effetto Notte. Sulla Grecia invece si è riunito oggi l'Eurogruppo per discutere di debito e della nuova tranche di aiuti da destinare ad Atene. Non è stato un incontro particolarmente decisivo, nel senso che alcune scelte sono state rimandate ai prossimi giorni, ma intanto la Grecia ha ottenuto un primo tiepido apprezzamento per le misure di austerità fatte passare dal primo ministro Tsipras, ma poi andremo più nel dettaglio più tardi. Banche, non è una questione di autoassoluzione, ma è importante puntualizzare i termini delle questioni. Questo non significa che chi è stato truffato non lo sia stato, ma significa che dal punto di vista regolamentare abbiamo fatto quello che potevamo fare. Questo l'ha detto il presidente della Consob, che è l'organizzazione dell'organismo di controllo della borsa, Giuseppe Vegas, spiegando le parole pronunciate questa mattina in merito alla risoluzione di Banca Marche, Banca Etruria, Cariferrara e Carichieti. Vicende come la liquidazione delle quattro banche, Etruria, Marche, Carichieti, Cariferrara, hanno scosso la fiducia dei risparmiatori come mai era successo nel dopoguerra, ma non mettono in discussione la validità dei modelli di vigilanza. Il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, davanti alla comunità finanziaria, difende le autorità. I prospetti dei bond subordinati erano chiari e chiari erano i rischi. Poi ammette, i prospetti sono troppo complessi per essere capiti da risparmiatori e così da una serie di raccomandazioni. Inserire un capitolo avvertenze, realizzare una scheda di sintesi con le informazioni chiave, collocare le obbligazioni su un mercato ad hoc. Infine, rendere più vigorosa la vigilanza. Stiamo mettendo in campo molte iniziative, ci racconta Vegas, ma non basta. Però a volte non è che quando uno perde una partita dà sempre la colpa all'arbitro, a volte dipende anche dai giocatori. Noi siamo qui per dare fiducia ai risparmiatori, ma il valore delle istituzioni va salvaguardato, conclude il presidente Consob. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo ci sono state perquisizioni della Guardia di Finanza di Arezzo e Firenze nella sede centrale della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. La Guardia di Finanza entra di nuovo negli uffici di Banca Etruria, oltre che nelle case di due funzionari. Stavolta gli uomini della GDF di Arezzo ritengono di aver trovato la prova che le obbligazioni subordinate vendute a 12.000 clienti siano state imposte alle filiali con un ordine dall'alto, ovvero dagli ex vertici della banca, in difficoltà a far quadrare i conti e in crisi di liquidità. Così i funzionari e i direttori delle agenzie sul territorio le avrebbero vendute alla clientela retail e anche a chi probabilmente non aveva strumenti per capire i rischi e valutare la situazione. Il filone d'inchiesta di cui stiamo parlando è quello della truffa. Ci sarebbero documenti per la procura che adesso la dimostrerebbero con più efficacia. Ci sono poi altri filoni di indagine, tra cui bancarotta fraudolenta, su cui gli inquirenti stanno ancora approfondendo i vari episodi di distrazione di fondi. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Arezzo. E ora parliamo di una nomina. Francesco Profumo, ex ministro ed ex presidente IREN, è stato eletto all'unanimità presidente della Compagnia San Paolo, che è la principale azionista di Banca Intesa San Paolo. Il Consiglio Generale ha nominato la leader degli industriali torinesi, Licia Mattioli, vicepresidente della Fondazione. Alla politica adesso, con la direzione del PD, Renzi mobilita il partito per il referendum e annuncia anticiperò il congresso e scoppia intanto lo scontro Boschi-Cooper. Direzione del PD per Matteo Renzi, l'occasione per fare il punto sui principali temi di attualità, dalla giustizia alle elezioni amministrative, dalle riforme ai nodi europei. Sul difficile rapporto con i giudici il premier ribadisce: si vada a processo, rispettiamo le sentenze, non troverete su queste mai un mio commento. Quindi l'attacco al Movimento 5 Stelle, l'accusa di doppio pesismo con il caso del sindaco di Livorno Nogarin. Qui sei garantista quando tocca ai tuoi e sei giustizialista quando tocca agli altri. Noi non chiediamo le dimissioni del sindaco di Livorno. Sarà il sindaco di Livorno a fare le proprie valutazioni davanti al suo consiglio comunale. Impegno sulle amministrative e sostegno ai candidati PD, ma il vero momento di svolta, fa capire Renzi, sarà il referendum di ottobre sulle riforme. Da qui l'annuncio della mobilitazione del partito, uniti per 5 mesi, dice poi il congresso. È un no che può essere ampiamente superato dalla forza dell'Italia che dice sì, se avremo la voglia, il coraggio e l'intelligenza di stare in mezzo alle persone. Sulle riforme batti becco Boschi Cooperlo. Chi vota no fa come Casa Pound, dice la ministra. No al bullismo anagrafico, replica l'esponente della sinistra interna. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi ci torniamo sulla direzione PD. Intanto, a proposito sempre di politica, parliamo di unioni civili. La legge approda nell'aula della Camera per quello che dovrebbe essere il voto finale, il rush finale, con l'approvazione definitiva forse già giovedì. Il governo porrà molto probabilmente la questione di fiducia già domani per evitare i trabocchetti rappresentati da alcuni voti segreti. Rispetto al clima infuocato, vi ricordate, del Senato a Montecitorio, si respira un clima più disteso con AP, che sarebbe pronta a votare sia la fiducia, quindi il nuovo centrodestra, che il disegno di legge nel suo complesso. Fuori dal palazzo, il leader del Family Day, Massimo Gandolfini, promette di vendicarsi con il no al referendum costituzionale, mentre nel mondo gay c'è un mix di soddisfazione e di delusione, a seconda di chi vede il bicchiere mezzo pieno oppure mezzo vuoto. Voi cosa ne pensate? Sarà, ed è praticamente quasi una conquista storica, secondo voi, come disse il ministro della giustizia Orlando, questa delle unioni civili? 3, 4, 349-238-6666 per i messaggi, sms e whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto passiamo ad altri argomenti, come l'allarme pesticidi. Aumentano i pesticidi nei punti monitorati delle acque italiane, sia in quelle superficiali, sono nel 64% delle acque di fiumi e laghi, sia in quelle sotterranee. Lo afferma l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell'edizione 2016 del Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque, relativa al 2013 e 2014. Sentiamo allora Pietro Paris, responsabile del rapporto ISPRA, al microfono di Alessandra Iannuzzi. La contaminazione da pesticidi ha origini storiche oramai, non stiamo scoprendo nulla di nuovo, solo che le indagini ogni anno sono più efficaci in termini di sostanze che vengono cercate e in termini di capillarità della rete. Quindi non è che di per sé il dato significa che sta aumentando la contaminazione, ma che portiamo alla luce piano piano una contaminazione nella sua interezza. Il fatto di portare alla luce una contaminazione non solo significa ovviamente che ci deve essere una contaminazione, ma ci deve essere anche una capacità in termini di monitoraggio adeguata a portarla alla luce. E devo dire che le regioni del nord hanno il monitoraggio più efficace storicamente, purtroppo diciamo è così. In altre zone del paese è ancora sotto traccia questa contaminazione, ma dove si comincia a lavorare in modo efficace sta avvenendo piano piano la luce anche al centro-sud. Ma quali sono, quali possono essere i danni per gli esseri umani, attraverso quali canali? Sentiamo ancora Paris. Non ritengo che ci sia un'esposizione attraverso l'acqua da bere da parte dei cittadini. È che la contaminazione ambientale può arrivare all'uomo anche per via indiretta, cioè quest'acqua viene utilizzata anche poi per irrigare, i trattamenti fitosanitari lasciano residui negli alimenti. Parliamo di TV adesso. La puntata di Made in Sud, programma comico prevista per martedì 10 maggio su Rai 2, non andrà in onda a causa della scomparsa del comico Massimo Borrelli del duo 2x2, formazione presente sin dalla prima edizione del programma. Questo lo comunica la Rai. E poi su Prince, il pop, la star del pop, morto qualche settimana fa, 57 anni, vi ricordate? Bene, ne vengono fuori ogni giorno una. Circa 700 uomini e donne provenienti da ogni parte degli Stati Uniti affermano di essere legati da un vincolo di parentela a Prince e sono a caccia naturalmente di una parte della sua fortuna, che è enorme, la sua eredità. Abbiamo ricevuto tra le 600 e le 700 chiamate, ha spiegato ai media statunitensi Harvey Morse, che si sta occupando dell'eredità della star morta lo scorso 21 aprile. C'è chi dice: abbiamo vissuto nella stessa zona, per cui dobbiamo essere parenti, e chi spiega di avere le immagini di Prince alla propria riunione di famiglia. Insomma, i mitomani cosa sono capaci di fare, pure di avere un po' di quattrini. Passiamo alla scienza. Si aprono scenari impensabili al CERN di Ginevra, dove le prime collisioni all'interno dell'acceleratore più grande del mondo alzano il sipario su fenomeni fisici inediti. La nave è salpata verso terre sconosciute. Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, commenta così i risultati raggiunti dall'acceleratore di particelle attivo presso il CERN di Ginevra. 13.000 miliardi di electron volt, mai si era arrivati a queste velocità di collisione. Ora si tratta solo di avere pazienza. L'obiettivo, spiega la direttrice del CERN, l'italiana Fabiola Gianotti, è studiare nei dettagli il bosone di Higgs, la particella elementare scoperta per la prima volta proprio a Ginevra nel 2012. Non solo, però, i risultati di queste collisioni potrebbero svelare fenomeni finora misteriosi, come la composizione della materia oscura che occupa un quarto dell'universo, o l'esistenza di altre dimensioni, e aprire così scenari assolutamente inediti per la fisica. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'altra notizia importante di scienza: è stata realizzata la seconda pelle che ringiovanisce e ripara la cute. È elastica, invisibile, duratura, idratante, così aderente da rinforzare la pelle e ridurre le rughe, le borse sotto gli occhi. È XPL, la pellicola biomimetica a base di silicone realizzata dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, descritta sulla rivista Nature Materials, è come una seconda pelle che protegge temporaneamente e ripara la pelle come un cerotto, una volta messa sulla pelle, la pellicola forma uno strato di polimeri inossidabili che rinforza la pelle sottostante, comportandosi come uno scudo protettivo traspirante. In una serie di test di breve durata, i ricercatori hanno dimostrato che questo materiale migliora le funzioni della pelle nei pazienti con la pelle molto secca, ripristinando il normale aspetto estetico, limitando l'impronta dei segni del tempo, facendo sembrare la pelle naturale e proteggendo dai raggi ultravioletti. Insomma, con ulteriori studi potrà essere utilizzata anche per somministrare farmaci per curare malattie della pelle come eczema e dermatiti. Che dire, fate presto. E poi per chiudere il calcio, prendo atto della decisione del TAS, il Tribunale Amministrativo Sportivo, ma la vivo come una profonda ingiustizia, dice Michel Platini commentando la riduzione della squalifica da 6 a 4 anni, dice questa decisione mi obbliga alla sospensione per tutta la durata della squalifica, mi dimetto dall'UEFA. E poi invece Damiano Tommasi è stato confermato alla guida dell'Asso Calciatori e nel prossimo quadriennio affronterà il suo terzo e ultimo mandato da presidente. Adesso siamo al ciclismo col Giro d'Italia. La maglia rosa Marcel Kittel, beniamino olandese Tom Dumoulin, il nostro Vincenzo Nibali e tutta la carovana rosa sono giunti dall'Olanda nella tarda mattinata di oggi alla Lamezia Terme. Da domani il Giro d'Italia sarà a tutti gli effetti italiano dopo il bagno di folla raccolto in 3 giorni sulle strade dei Paesi Bassi. Domani quarta tappa, nervosa, pericolosa, tutt'altro che semplice. 200 km da Catanzaro a Praia Mare con gli ultimi 80 davvero impegnativi. Traguardo adattissimo ai cacciatori di tappe, l'ideale per quei corridori che hanno doti di scattista come Alejandro Valverde. Per la maglia rosa Marcel Kittel una tappa insidiosa, visto che il tedesco è sì il migliore dei velocisti, ma nelle frazioni miste soffre ancora troppo. A 9 secondi di vantaggio su Tom Dumoulin e domani, su un traguardo così, la farfalla di Maastricht potrebbe tornare a vestirsi di rosa. Per Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Catanzaro. Bene, questo è il quadro della giornata. Allora poi comincerò come sempre dopo la viabilità a entrare nel cuore degli argomenti con i vari ospiti e anche attraverso i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. La domanda che vi ho posto oggi, siccome arriva alla Camera il testo sulle unioni civili per il voto finale, vi chiedo siete d'accordo col Ministro della Giustizia Orlando che è una conquista storica oppure no? Per esempio, storica con la stepchild adoption, ci si accontenta, il paese più avanti del Parlamento, Fabio dice etero e genitore adottivo, così si firma Fabio. Poi Francesco da Torino, l'Italia sta morendo e per questo governo la priorità sono le unioni civili, assurdo, dice. Poi un altro dice perché non fare una legge, è quello che infatti si sta cercando di fare. Alberto, mi sembra che dire in questo periodo che l'acqua avvelenata sia palese favore all'industria delle acque in bottiglia. No, ma comunque Alberto, adesso riferendosi ai pesticidi presenti, mi pare che l'esperto abbia specificato che non si tratta dell'acqua del rubinetto, ma semmai di contaminazione dei terreni. Questo è il rapporto nazionale dell'ISPRA. Poi c'è Paolo che dice ci sono leggi che cambiano comportamenti generali di massa e comportamenti generali di massa che costringono i legislatori a cambiare le leggi. Quella sull'unione civile è la seconda che ho detto, dice Paolo. Continuate, messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, dove per esempio Luciano dice conquista di che? Altri paesi più civili del nostro queste riforme le hanno fatte anni fa. Sarà meglio passare oltre e occuparci di altro. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Poi vi ricordo anche le notizie, ogni tanto dopo le pause fa bene ricordarci, specie se non accendete puntualmente alle 21 su Effetto Notte, qualcuno è anche perdonabile perché magari non fa in tempo, è al lavoro, sta uscendo di casa o da qualche altra parte. Comunque, voi continuate con i vostri messaggi intanto al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte sulle unioni civili, il testo arriva alla Camera, si cominceranno i voti da domani, ma ci sarà il voto di fiducia, quindi dovrebbe esserci quello finale giovedì e il Ministro della Giustizia Orlando parla di conquista storica. Voi cosa ne pensate? Michele dice conquista storica per l'Italia certamente ma già vecchia di 30 anni se raffrontiamo con l'Europa. Simone, per l'Italia è comunque un passo avanti notevole, siamo il paese con il Vaticano dentro la nostra capitale. Cristiano scrive travagliate e tardive con quasi certezza tristemente figlie di un voto di fiducia ma va così e si tira avanti. Gilles, è comunque un compromesso a ribasso, dice, si conferma come in mille altri campi la posizione in classifica dell'Italia fra i paesi europei democratici ed è ultima. Continuate voi con le vostre riflessioni, tra poco parleremo di politica, in particolare della direzione del PD, ma queste sono le notizie. Renzi oggi, appunto, questo vertice del PD ha annunciato una mobilitazione di 5 mesi tra amministrative e referendum di ottobre, poi dice faremo anche il congresso, intanto scoppia lo scontro Boschi-Cuperlo. Crisi in Europa, il cancelliere, il primo ministro austriaco Faymann si dimette dopo il successo dell'ultradestra, mentre in Gran Bretagna il primo ministro Cameron evoca la guerra, dice possibili conflitti se vince la Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Vegas, presidente della Consob, ha commentato sui bond delle banche fallite, i rischi erano chiari, noi abbiamo fatto quello che possiamo, che potevamo. Il presidente del Senato Grasso torna sulla tensione tra magistratura e politica, dice i magistrati non confondano le funzioni, allarme pesticidi, sono nel 64% delle acque dei fiumi e dei laghi, sale la contaminazione sotterranea al top pianura Padano-Veneta. E ancora la CEI che chiede a Renzi permessi umanitari per tutti i richiedenti asilo, mentre Salvini della Lega dice non concordo, e intanto l'Unione Europea afferma non c'è un piano B all'accordo con la Turchia per i migranti. E Platini dice addio all'UEFA, prendo atto della decisione del Tribunale Amministrativo Sportivo che ha ridotto la pena di sospensione sua solo di 2 anni. E così siamo alla politica. Oggi vi dicevo c'è stata la direzione del PD, direzione che si è aperta tra l'altro con un ricordo di Aldo Moro, visto che ricorre l'anniversario, e vari naturalmente sono stati i temi affrontati. Il recente rivigorirsi delle tensioni, di cui abbiamo parlato molto, con effetto note tra politica e magistratura, le prossime elezioni amministrative, sono il 5 giugno, quindi veramente dietro la porta, il referendum sulle riforme costituzionali a ottobre e Renzi, che è Presidente del Consiglio e segretario del PD, ha aperto la direzione con un pacchetto quindi di proposte per il partito nei prossimi mesi. Una mobilitazione di 5 mesi, dice, per vincere in quanti più comuni possibili. Una raccolta di firme sul referendum di ottobre con la nascita dei contestati comitati. La richiesta di moratoria delle polemiche all'interno del PD, cioè di sospensione di queste polemiche, di non vergognarsi, ha chiesto del Partito Democratico. E poi la proposta di anticipare il congresso del PD di qualche mese rispetto alle elezioni. C'è da dire che Renzi auspicava una direzione del partito piuttosto tranquilla con questa richiesta di moratoria, una tregua insomma tra maggioranza e minoranza del PD. In realtà sono bastati pochi minuti affinché si accendesse un duro scontro tra Gianni Cuperlo, che è esponente della minoranza PD, che ha attaccato la ministra delle riforme Maria Elena Boschi, che poi a sua volta ha risposto con veemenza sul tema del referendum. Sentiamo Cuperlo. Io ho atteso come un atto dovuto la smentita di una ministra che, parlando della Costituzione, avrebbe posto quella parte della sinistra orientata a votare no sullo stesso piano di Casa Pound e noi, virgolette, con Casa Pound non votiamo. E allora chiedo in questa sede, chiedo che senso hanno queste parole? Che senso ha spingere in questo momento la polemica sino ad ignorare che tra chi sceglierà di dire quel no vi sono per esempio i vertici dell'AMPI o personalità come 11 presidenti emeriti della Consulta? Sentiamo cosa ha risposto la ministra Boschi, sempre la direzione PD. Più volte io ho sentito equiparare chi vota sì alle riforme costituzionali a Verdini, dicendo che chi vota sì vota insieme a Verdini. E in un incontro pubblico mi sono limitata a dire che chi vota no come Casa Pound. Non ho fatto una valutazione di merito, equiparazioni, ho semplicemente fatto una constatazione di un dato oggettivo, di un dato di fatto, che può piacere o no, ma è così nella sua banalità. Chi vota no come voterà no Casa Pound. Quindi le tensioni all'interno del PD rimangono. Parliamo con Angela Mauro, giornalista dell'Huffington Post Italia. Buonasera Angela. Buonasera. Quindi la vivacità non è mancata, vogliamo dire così? Beh sì, perfettamente come dicevi tu, effettivamente questo scambio tra Boschi e Cuperlo ce ne dà misura in qualche modo, e non a caso è uno scambio che è avvenuto sul referendum, non sulle amministrative. Già. Questo per dire che credo che questo appello alla tregua, questa richiesta da parte di Renzi di unità e compattezza del PD, cosa di cui tra parentesi lui ha disperato bisogno adesso per non arrivare al referendum da solo, no? Per cercare di ricucire rapporti lacerati in questi mesi. Ecco, dicevo, questa richiesta di unità e compattezza, seppure secondo me può avere un esito positivo in vista del voto di giugno delle amministrative, non la vedo così, diciamo, facile a realizzarsi in vista di ottobre. ottobre, del referendum costituzionale di ottobre. Sappiamo che su quell'appuntamento lì la discussione è molto accesa nel PD e credo che continuerà a essere tale, tanto che, e penso lo sappia anche Renzi, tanto che appunto ha avuto questa idea di cui in direzione nessuno sapeva nulla, di chiedere di anticipare il congresso in modo da fare chiarezza subito, cioè in fondo quello che vuol dire appunto non restiamo a bagnomaria, diciamo così, dopo il referendum fino al congresso fissato adesso per fine 2017, per l'autunno del 2017, anticipiamolo di modo che chi nel partito mi fa i giochetti sporchi, tra virgolette, nel senso mi fa campagna per il no al referendum costituzionale, io gli metto il congresso subito dopo l'appuntamento di ottobre, in e modo così che chiariamo. Ha più difficoltà, sì, ha anche più difficoltà ad agire nel campo del PD dopo aver fatto propaganda per il no. Sentiamo insomma questo passaggio, Angela Mauro, sentiamolo con Renzi. Finito quel passaggio, credo che si debba aprire la fase congressuale, nel senso che mi sembra del tutto evidente che una volta che si è finito quel passaggio e che si conferma le elezioni nel 2018, abbiamo un anno di tempo per gestire un congresso che sia il più serio possibile dal punto di vista del confronto. E così ha detto Renzi. Angela, fra l'altro, con tutte le cose che sono successe ultimamente a proposito delle inchieste che hanno colpito degli esponenti locali del PD, sentiamo Cuperlo che cosa dice. Nessuno ha una benda sugli occhi e quindi vediamo anche le ombre davanti a noi. Dall'ingresso formale di Verdini nella maggioranza, almeno così è stato descritto ieri in una intervista da parte di un autorevole vice ministro, al venir meno della linea di confine tra l'esercizio del potere e un'etica dei comportamenti che si restituisce per intero una questione morale di lunga memoria e di lunga data, questione sulla quale secondo me sia ieri sera nella sua intervista televisiva che oggi da questa tribuna Renzi ha speso delle parole molto serie. Quindi Cuperlo ha voluto risottolineare ancora una volta la questione morale, no? Riproporre nella direzione PD, se no dove? Sì, in effetti ha voluto però con questo passaggio riconoscere al Premier riconoscergli il merito di aver finalmente ammesso che esiste una questione morale nel PD. Ricordiamo che Renzi l'ha fatto ieri nell'intervista che ha dato a Fazio. Fino a qualche giorno fa il suo giudizio, il suo commento alla domanda esiste una questione morale del PD era non esiste una questione morale del PD, esiste ovunque, se esiste esiste in tutti i partiti, bisogna distinguere tra cittadini buoni per bene e cittadini diciamo non per bene. Ieri ha compiuto questo passo che è un'autentica novità nella sua risposta alle polemiche che ci sono state nell'ultimo mese con la magistratura, un'autentica novità che punta a tirare dentro anche personalità come Cuperlo o comunque tutto quell'elettorato progressista che non aveva gradito la sua decisione di negare una questione come quella morale appunto nel PD, con le inchieste che nell'ultimo mese hanno sbattuto PD e governo in prima pagina su tutti i giornali. A proposito di questo e di giustizia, Renzi è tornato a dire la giustizia vada a sentenza. Io chiedo che i magistrati di Potenza rapidamente vadano a processo, perché dopo 3 volte in cui siamo andati in prescrizione su 3 indagini a Potenza sui temi dell'oil and gas, è un dovere civile di questo paese sapere se ci sono persone che inquinano o no. È un dovere del paese non vivere nelle valutazioni fatte a caldo sulle indagini e sulla ricostruzione delle indagini. Si vada ai processi, noi vogliamo i processi, noi facciamo di tutto perché i magistrati possano andare a sentenza e contemporaneamente, come ci insegna la nostra carta costituzionale, rispettiamo le sentenze e non le commentiamo, noi siamo fatti così. E poi Angela, sul anche diciamo le reciproche accuse col Movimento 5 Stelle, lui ha ribadito noi siamo garantisti. Mi riferisco più in generale a un atteggiamento per cui sei garantista quando tocca ai tuoi e sei giustizialista quando tocca agli altri, che è insopportabile. Per cui noi siamo genuinamente garantisti. Noi non chiediamo le dimissioni del sindaco di Livorno. Non le chiediamo. Sarà il sindaco di Livorno a fare le proprie valutazioni davanti al suo consiglio comunale. Insomma, Angela Mauro, i temi sono tanti, oggi sta la direzione, vediamo se si anticipa il congresso, tra l'altro da domani si ricomincia a votare sulla legge delle unioni civili, no? Sì, certo, entro la fine della settimana dovremmo avere questo voto finale con fiducia, come si era detto alla Camera, il testo è blindato. Sì. E credo che sia un risultato cui appunto il Premier tiene, proprio gli serve anche come ingrediente, no? di campagna elettorale in vista del voto di giugno, che questa è l'altra cosa, oggi l'ha ammesso anche in direzione, no? Ha ammesso la difficoltà per il PD di arrivare al ballottaggio in alcune città, un'ammissione in piena regola, e da qui appunto l'appello al PD a agire compatti per il voto di giugno, ma anche per quello di ottobre, che al Premier interessa di più in quanto è un terzo governo. Sarà una bella galoppata, insomma, da qui. Grazie Angela Mauro dell'Huffington Post. Grazie a voi, buona serata. Ciao Angela. Adesso, prima di lasciarci brevemente, intanto c'è un ascoltatore, vediamo se lo ritrovo. Roberto da Modena dice: scusi, ma Alessandro Profumo non è un ex ministro? Scusa Roberto, io non ho parlato di Alessandro Profumo, ma di Francesco Profumo, che è stato nominato all'unanimità presidente della compagnia San Paolo, che era presidente, è stato il CNR, ex presidente, ministro dell'istruzione. Capito Roberto? Ecco, non ho detto Alessandro, ho detto Francesco, sturarsi un pochino le orecchie. Comunque, per carità, uno può capire una cosa per un'altra. Poi, sempre sulle unioni civili, invece, i vostri messaggi. Un ascoltatore dice: diritti civili, manovra elettorale, secondo questo ascoltatore. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte e con gli SMS e i WhatsApp al 349-238-6666, per esempio. Lisa scrive... Come fanno a essere orgogliosi di questa legge sulle unioni civili? Meglio di niente, ma non basta, nel senso che dice un po' troppo a ribasso. Sergio: sarà una bella buffonata, come Renzi sa fare benissimo. Enrico dice: Orlando, ministro della giustizia, fischia dalla finestra. In che senso, Enrico? Non si capisce, un messaggio un po' lì. Comunque riflettete prima di scrivere. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo a momenti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, e da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte, perché lo so, ho visto, ho controllato che da un sacco di parti, da un sacco di latitudini arriva il vostro ascolto e arrivano le frequenze verso di voi, evidentemente. 349-238-6666 poi è il numero per WhatsApp e SMS al quale potete scrivere le vostre opinioni, i vostri commenti sul tema del giorno, così come sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Quello che vi ho proposto questa sera è, visto che torna il testo di legge sulle unioni civili in Parlamento alla Camera per essere votato, e dovrebbe essere votato definitivamente giovedì. Oggi il ministro della giustizia Orlando ha detto: finalmente una conquista storica, cosa ne pensate? Questo vi chiedo. C'è, intanto accolgo le scuse di Roberto, ma non c'era bisogno. Poi Emanuele dice: creare un matrimonio artificiale è un disastro giuridico che avrà ricadute a cascata non immediate ma nel lungo periodo, perché introdurremmo nel nostro ordinamento il principio secondo cui un capriccio di una minoranza ha lo stesso valore di un principio costituzionale. Scusa Emanuele, se mi chiarisci anche il significato di un capriccio di una minoranza, di capriccio, prima di tutto potresti essere anche più chiaro. Poi invece dice Carmine: le conquiste storiche appartengono alla storia, potremmo dire che sarebbe una conquista del presente. Ricordo che il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora, c'è solo quest'attimo per vivere una possibile conquista. Così un po' epico, un po' poetico Carmine, l'attimo fuggente, però diciamo che si usa giustamente l'espressione che è un fatto storico, una conquista storica, nel senso che sono passati anni e resterà nella storia, nel senso del bene e del male, qualsiasi evento. Enrico da Modena: io sono andato a votare il referendum per le trivelle, quello sulle riforme costituzionali, credo che non andrò e seguirò il consiglio di Renzi, così impara, dice Enrico. Vabbè, qua siamo più sul lato più politico, più relativo ai voti. E poi il tuo cuoricino progressista e politicamente corretto proprio non ce la fa, perché non leggi il messaggio di Sofì? Non ho visto nessuna Sofì firmare. Poi se mettete magari in modo più chiaro anche i vostri messaggi, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Intanto vi ricordo i titoli più importanti. Terremoto politico in Austria, ne parleremo tra breve. Dopo il trionfo alle presidenziali dell'ultradestra, si dimette il cancelliere Faymann. Eurogruppo straordinario sulla Grecia, l'accordo sulla prossima tranche di aiuti arriverà nei prossimi giorni. Banca, il presidente della Consob Vegas sulla risoluzione per gli istituti bancari, dice: nessuna autoassoluzione, abbiamo fatto quanto potevamo fare. E Profumo diventa presidente, Francesco Profumo, presidente della compagnia San Paolo. Direzione PD, Renzi mobilita il partito per il referendum e annuncia: anticiperò il congresso. Intanto scoppia lo scontro Boschi-Cuperlo. Unioni civili, il testo approda nell'aula della Camera per quello che dovrebbe essere il rush finale. E allarme pesticidi, sono nel 64% delle acque dei fiumi e dei laghi. Sale la contaminazione sotterranea, i valori più alti nella pianura padano-veneta. E poi calcio per Platini, pena ridotta di 2 anni. Lui dice: prendo atto della decisione del TAS, però è un'ingiustizia. Occupiamoci quindi dell'Austria adesso. Se ne è parlato molto nelle settimane scorse, prima di tutto per questo braccio di ferro con l'Italia a proposito dell'annunciato muro al Brennero per frenare il flusso dei migranti, e anche per le elezioni presidenziali che ci sono state nelle ultime settimane. C'è stato il primo turno che aveva già segnato un consistente successo dell'ultradestra, un successo poi confermato definitivamente dal trionfo al secondo turno. Questo risultato ha spinto il cancelliere, cioè il primo ministro austriaco Faymann, dopo 2 settimane di pressioni politiche, a dimettersi. In effetti il successo dell'estrema destra anti-immigrazione del Partito della Libertà alle elezioni presidenziali ha assestato un duro colpo alla coalizione di governo composta da socialdemocratici e dal Partito Conservatore. E da 45 anni, pensate, in Austria il presidente del paese è sempre stato espresso da uno di questi due maggiori partiti. Ne parliamo con Vittorio Darol del Sole 24 Ore. Ciao Vittorio. Ciao. Caro Vittorio, ci spieghi così brevemente, ho cercato di spiegare un po' perché è arrivato le dimissioni il cancelliere, quali soprattutto potrebbero essere le conseguenze non tanto solo per l'Austria ma anche per la questione del Brennero, per esempio, no? Sì, esattamente. Faymann ha gettato la spugna perché durante il comizio del 1° maggio, che era proprio un momento cruciale per il tentativo di prepararsi al ballottaggio e quindi per cercare di dare un po' di vigore ai suoi stessi sostenitori, ha avuto come risultato una marea di fischi. Quindi ha capito che la sua politica ormai era giunta al capolinea, è stato il canto del cigno, e quindi ha gettato la spugna, perché il suo stesso partito, che il Partito Socialdemocratico, che è il partito di maggioranza relativa, aveva raggiunto l'11% nell'ultimo, voto per il primo ballottaggio, appunto il primo voto per le presidenziali. Non era mai successo che i due partiti di governo sommati arrivassero al 23% dei voti, quindi un chiaro segnale di che ci voleva un elemento di discontinuità, di cambiamento. L'Austria è in una situazione molto complicata perché è in un'economia infrenata, è in una situazione dove il welfare è troppo generoso e quindi ci vogliono delle riforme impopolari. Faymann per 8 anni è stato cancelliere, ma non ha fatto le riforme che doveva fare il paese, e è bastato l'arrivo di una crisi esterna come quella dei migranti. L'anno scorso sono state 90.000 domande di asilo in un paese di 8 milioni e 400 mila abitanti, questo ha fatto saltare gli equilibri, ha esploso letteralmente il partito xenofobo nazionalista di Norbert Hofer, l'erede di Jörg Haider, che è arrivato al 33%, un'esplosione che naturalmente tutto questo in vista del ballottaggio del 22 maggio, dove ci sarà proprio il re dell'azione fra le due fazioni, i partiti pro-Europa e il partito appunto xenofobo, che invece vuole andare da solo, addirittura prevede di unificare il Tirolo, quindi cercando addirittura di annettere una regione italiana. Vittorio, ma la questione del Brennero a questo punto potrebbe prendere, nel senso, è scontato che essendoci l'ultradestra, il governo adesso, si farà questo muro, oppure? La situazione è che Hofer in qualche modo ha già vinto, anche se non è ancora presidente o non lo diventerà, perché la caduta del primo ministro, che aveva appunto paventato questo muro, per ora solo un'ipotesi, in realtà la rilancia, perché ancora una volta le forze che vorrebbero appunto dividere l'Europa si fanno sempre più forti. Quindi il 22 maggio potrebbe esserci una svolta se Hofer diventa presidente, quindi per la prima volta l'Austria ha un presidente che non è pro Europa, non è il frutto di partiti, diciamo, che sono vicini a Bruxelles, e questo sarà un elemento dirompente, soprattutto in vista delle elezioni francesi, dove c'è il partito della Le Pen, o addirittura dell'Alternative für Deutschland in Germania, dove gli ultimi sondaggi lo danno addirittura al 15%, cioè il partito xenofobo e che vuole uscire, è la Germania che propone di uscire dall'euro. Grazie Vittorio Darold. Come questa crisi dei migranti sta cambiando, no, il modo anche di pensare dell'Europa, dei paesi europei, dello stare insieme, delle strategie. Adesso ci fermiamo per naturalmente aggiornare chi viaggia. Voi continuate con i vostri messaggi 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Gianni da Bari dice, per esempio: personalmente credo che per le unioni civili sarebbe stato sufficiente aggiungere qualche riga al testo delle leggi già esistenti. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Così scrive un ascoltatore: cosa penso delle unioni civili? Semplice, al referendum di ottobre voterò no, così Renzi andrà finalmente a casa. Mentre Michela scrive: piuttosto che niente, meglio piuttosto, ma che tristezza che è stato questo gioco al ribasso. E adesso le notizie, brevemente vi ricordo le più importanti. Oggi il vertice, la direzione del PD, Renzi ha annunciato una mobilitazione di 5 mesi per le amministrative e soprattutto per il referendum di ottobre. Poi crisi in Europa tra Faymann, primo ministro austriaco che si dimette dopo la vittoria dell'ultradestra, il primo ministro inglese Cameron che evoca la guerra e possibili conflitti se vince la Brexit. Vegas, presidente della Consob in Italia, dice: sui bond delle banche fallite i rischi erano chiari. E poi allarme pesticidi: sono nel 64% delle acque di fiumi e laghi, sale la contaminazione sotterranea soprattutto nella pianura padano-veneta. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Oggi è la festa d'Europa. L'Unione Europea è un progetto che ha coinvolto 3 generazioni di giovani. I padri fondatori l'hanno concepita, i giovani del dopoguerra che hanno vissuto i primi passi della comunità e la riunificazione seguita alla caduta del muro di Berlino, e i giovani d'oggi, i primi veri nativi europei. U-Zone festeggia l'Europa così, dando voce agli europei, ai giovani federalisti d'Europa e alla loro idea di Europa. Nome: Sebastiano. Cognome: Putoto. Età: 27, quasi. Professione: assistente al Parlamento europeo. Segni particolari: italiano, belga, in ogni caso europeo. La mia idea di Europa è un po' complicata, nel senso che, come dico spesso, io non ho avuto molta scelta. Io sono nato europeo, mi sono svegliato europeo e quindi ne ho fatto anche un lavoro e una passione. Ci sono un sacco di questioni che sono affrontate in maniera molto più efficace se riusciamo a mettere insieme le forze dei cittadini europei e degli stati europei, invece che agire ognuno per conto suo. Dopo secoli di guerre, ma secoli anche di viaggi in cui i cittadini dei piccoli comuni e staterelli europei si muovevano da un lato all'altro per condividere conoscenze e sviluppare filosofia e dialogare tra cittadelle che erano ancora più piccole degli stati attuali, comunque si girava sempre tra europei, si parlava tra europei. Questo essere europei è una cosa connaturata a noi, è un'identità comune che forse non è un'identità di lingua, ma è sicuramente un'identità di valori e un'identità di spirito. Nome: Ofeli. Cognome: Omnes. Età: 25 anni. Professione: avvocato. Segni particolari: vicepresidente della GEF. Secondo me l'Europa ha senso perché ha migliorato la vita dei cittadini, ha fatto dei paesi nemici di guerra alleati nella costruzione di un futuro migliore, e adesso noi giovani lo sentiamo ancora di più perché non c'è più tante differenze tra italiani, francesi, tedeschi, perché condividiamo gli stessi valori e gli stessi modi di vivere. E grazie all'Europa e anche a Schengen lo stesso spazio, con le sfide generali, non c'è più posto per piccoli stati che pensano poter risolvere le cose da soli, e quindi dobbiamo essere uniti e lottare insieme. E insomma, ha senso l'Europa per tanti motivi, ma avrebbe ancora più senso se fosse una federazione democratica. Nome: Giulio. Cognome: Saputo. Età: 27. Professione: studente. Segni particolari: entusiasmo politico. La mia idea di Europa è quella che apparteneva ai padri fondatori, è l'Europa del manifesto di Ventotene, un'Europa che purtroppo oggi ancora non è stata completata con l'unione politica, è l'Europa per cui si battono i giovani federalisti europei per cercare di costruire un'idea anche nella cittadinanza, ma soprattutto anche dei governi, per arrivare a un'Europa migliore, un'Europa politica che sia in grado di avere gli strumenti per affrontare le crisi che ci stanno colpendo. Questa è l'Europa per cui mi batto. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E restiamo in Europa, ma spostiamoci sulla Grecia e sul suo debito, sulle sue misure di austerità, perché di tutto questo si è parlato oggi all'Eurogruppo straordinario a Bruxelles, che ha, diciamo, l'Eurogruppo apprezzato, cioè l'insieme ai ministri dell'economia e delle finanze, ha apprezzato tiepidamente le misure di austerità fatte passare dal primo ministro Tsipras, però del debito e del via libera, la prossima tranche di aiuti, si dovrebbe parlare nei prossimi giorni, vero Beda Romano, mi sembra, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Ciao Beda. Sì, buonasera. Se ne riparlerà ancora nuovamente fra due settimane, il 24 maggio, quando i ministri torneranno a riunirsi. La riunione di oggi è stata una riunione in parte interlocutoria. Quindi non decisiva. Non decisiva. I ministri hanno dato la loro approvazione alle riforme e alle misure che sono state approvate dal Parlamento greco domenica, ma vi erano due dossier ancora sul tavolo. Il primo è quello di misure preventive da introdurre nel caso in cui il percorso di risanamento dei conti pubblici dovesse deragliare, e il secondo è quello dell'alleggerimento del debito. E su questi due fronti i ministri hanno dato mandato ai diplomatici di trovare delle soluzioni tecniche da approvare giusto appunto il 24 maggio. Quindi è stata una riunione in cui sono stati fatti progressi, ma da cui non è scaturita una soluzione definitiva. Sentiremo nei prossimi giorni. Grazie Beda Romano da Bruxelles. Ciao Beda. A presto. Arrivederci. Grazie. Allora, Marco da Roma scrive sulle unioni civili, tracollo etico della società, dice poi Edoardo da Verona, una legge indispensabile per adeguarsi al resto d'Europa, ma l'Italia non è ancora pronta, dice, magari domani potremo parlare proprio di questo, siete pronti o meno. Elena sulla pagina Facebook dice finalmente, mi sa che invece noi a questo punto finalmente, spero di no, che non sia finalmente per voi, dobbiamo chiudere, io vi devo lasciare brevemente, poi sapete che torno ad aggiornarvi alle 22 con i titoli più importanti.